X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. La ridotta natalità, il contemporaneo innalzamento dell'età media della popolazione e l'erosione dei livelli di occupazione creano una combinazione sfavorevole che non può essere affrontata con i mezzi tradizionali delle politiche di bilancio, mentre richiederebbe una revisione coraggiosa dei confini dell'intervento pubblico. Difficilmente il sistema economico potrebbe sopportare ulteriori aumenti della pressione fiscale. Prioritaria appare semmai la necessità di un intervento di segno opposto, volto a restituire capacità di spesa a famiglie e imprese. Ecco, Enrica La Terza, presidente delle sezioni riunite della Corte dei Conti, che ha presentato ieri la relazione della Corte stessa sul rendiconto statale. Dino Pesole, editorialista del Sole 24 Ore, è definitivo, è ufficiale, allora la pressione fiscale è intollerabile. La pressione fiscale è intollerabile, siamo arrivati al 43,5% del PIL e come sappiamo questa è una media che però non fotografa esattamente la situazione, perché per effetto dell'alta evasione le tasse che tutti i contribuenti onesti pagano sono molto, è molto più alta, infatti. E questo quindi il dato saliente che emerge dalla relazione? Eh sì, è uno dei dati salienti. L'impegno è rivolto al governo, che dovrà con la prossima legge di stabilità provare a ritagliare dei margini. A ridurre le tasse. Sì, a ridurre le tasse e a trovare quindi un finanziamento per ridurle. Quindi questa è un po' la scommessa. Ma questo è il significato politico della relazione, diciamo così? Sì, è uno dei significati politici. L'altro riguarda la spesa pubblica, che la Corte dei Conti ci dice è molto difficile da tagliare. Quindi anche questo è un impegno, perché la via maestra per tagliare le tasse e trovare gli spazi tagliando la spesa. Quindi bisogna essere giocolieri per inventarsi il modo di ridurre le tasse. Bisogna essere giocolieri, la via maestra è il taglio della spesa pubblica e la lotta all'evasione, ma sono due partite molto complicate nel nostro paese storicamente. Secolari. Senti, secolari. E questa è la conseguenza che potrebbe essere concreta sull'azione di politica economica del governo, della relazione? Beh, la conseguenza è che è un impegno che viene rivolto al governo e al Parlamento, perché già con le prossime manovre di bilancio si comincia a mettere in campo un'azione risoluta di riduzione delle tasse. E non è da poco, perché se viene dalla massima magistratura contabile del paese questo invito, insomma bisogna seguirlo. Bisogna dargli seguito. Senti Dino, un'ultima cosa, nella relazione si dice anche che i cittadini devono pagare di più per i servizi. È un colpo al cerchio, un colpo alla botte? Sì, in parte è vero, anche se poi da questo punto di vista pagare di più i servizi bisogna vedere cosa vuol dire. Secondo me dentro poi lì c'è anche un invito a renderli più efficienti servizi. Renderli più efficienti significa fare un'azione selettiva della spesa, questa sì che è vera spending review, non i tagli lineari. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. La Russia si trova in una recessione profonda. L'azione della Russia in Ucraina fa male alla Russia e ai russi. Il G7 ha detto chiaramente che se sarà necessario, nuove significative sanzioni verranno imposte alla Russia. Vladimir Putin deve scegliere se continuare a isolare il suo paese e a distruggere la sua economia, nello sforzo sbagliato di ricreare i fasti dell'impero sovietico. Oppure se riconoscere che la grandezza della Russia non dipende dalla violazione dell'integrità territoriale e della sovranità di altri stati. A volte penso che l'orso dovrebbe starsene tranquillo, a mangiare miele e frutta. Così verrebbe lasciato in pace. Ma non è così. Cercheranno sempre di incatenarlo. E una volta incatenato, gli strapperanno i denti e le unghie. Nonostante il muro di Berlino sia crollato, si costruiscono nuovi muri. L'espansione della NATO non è forse un muro? Un muro virtuale? I nostri partner si credono un impero. Ci vogliono vassalli. Servirebbe invece un solo spazio umanitario di libertà e di commercio. Erano le voci prima di Obama, poi di Putin. La guerra fredda sembra riaccendersi, il professor Sergio Romano in un suo libro, addirittura un libro scritto in lode della guerra fredda. Gli americani e la NATO continuano ad armare l'est europeo, mentre Putin allunga il periodo dell'embargo contro l'Europa. Ma il piano propagandistico sta coinvolgendo addirittura l'atterraggio degli americani sulla Luna. Pochi giorni fa sul giornale russo Le Svezia, Vladimir Markin, un portavoce importante del comitato investigativo del governo russo, ha pubblicato un editoriale nel quale afferma che la Russia vuole aprire un'indagine per scoprire se gli americani hanno davvero mandato uomini sulla Luna con le missioni Apollo. In particolare Markin pensa che si potrebbe capire meglio per quale ragione la NASA abbia distrutto i preziosi filmati originali del primo allunaggio di Armstrong e Aldrin del luglio del 69, giustificando la decisione con la necessità di contenere i costi. Il tema dell'allunaggio fittizio ha coinvolto anche il cinema. Nel 78, per esempio, il film Capricorn One raccontava l'incredibile storia di un falso sbarco sul pianeta. Nel film di Himes la NASA scopre di non essere in grado di partire per la missione, onde evitare che i finanziamenti per missioni successive vengano cancellati, decide di inscenare il tutto in uno studio televisivo. Houston, sono sulla scala. Pronti con rallentatore? Houston, sto per toccare la superficie. Rallentatore. Houston, sono sulla superficie. Ora pianteremo la bandiera. Noi prendiamo possesso di questo pianeta in nome dell'America. Ne prendiamo possesso in nome di tutti i popoli del pianeta Terra, con la speranza che la nostra missione incrementi la comprensione tra le razze umane. Al di là delle ipotesi di Capricorn One, il 21 luglio del 69, la storica data dello sbarco sulla Luna, tutta l'umanità si è fermata. Noi in Italia ascoltavamo le parole di Tito Stagno e quel che poi è diventato un famoso battibecco con l'inviato dagli Stati Uniti, Ruggero Orlando. Ha toccato il suolo lunare. No, non ha toccato. A voi Houston. Qui ci pare che manchino ancora 10 metri. No, Ruggero. Ecco, sto aspettando. No, Ruggero. Pronto? Sto aspettando. Se abbiamo ascoltato bene le comunicazioni fino adesso... Sto aspettando, no? Da 2 metri e mezzo non si passa a 10. Fermate i motori, hanno detto da terra. Ha toccato in questo momento. In questo momento ha toccato. Ha toccato, sai... Hanno fermato i motori in questo momento. Riepiloghiamo quello che è successo. Così come l'abbiamo seguito qui presso la sala controllo di Houston. Orlando, scusa Ruggero, un po' rapido perché poi il nostro Porcella ci illustrerà bene il lavoro. Se ci sono le interruzioni perdiamo tempo. Sì. Armstrong e Aldrin hanno attivato i razzi del loro Aquila, si sono separati dalla Carlinga di Columbia. Grazie Ruggero, perdona l'interruzione di prima, ma sono momenti di tensione per tutti. Ecco come Tito Stagno ci ha raccontato poi l'origine di quel famoso battibecco con Ruggero Orlando. Io sentii in cuffia Richard Land. Richard Land vuol dire letteralmente ha toccato. E dissi subito, ha toccato il suolo lunare. Poi ci sono stati pochi secondi prima che si accomodasse. Prima che le gambe del carrello della navicella lunare si affondassero nel suolo lunare. Fra l'altro lì intervenne Orlando e ci perdemmo, cosa buffa, l'annuncio storico di Armstrong. Ah, certo. Eagle has landed. Non l'abbiamo sentito. Vedi, mai litigare. Questo episodio ha ridato una dimensione umana alla cosa. Ecco, adesso dopo 46 anni da quello storico giorno, i sospetti di Mosca si riaprono il caso e i cospirazionisti, diciamo così, hanno un nuovo alleato. Sentiamo su cosa sono fondati o no gli interrogativi degli scettici. Prima domanda. Com'è possibile che dei reticoli ottici, che in una macchina fotografica sono incisi su una lastra di vetro posta fra la pellicola e l'obiettivo, scompaiano dietro gli oggetti fotografati? Seconda domanda. Come si spiega la presenza di un'enigmatica lettera C sul masso lunare? Per gli scettici è la dimostrazione che si tratta di un oggetto di scena. Terza domanda. Su quasi tutte le illustrazioni della NASA, la Luna è raffigurata con il cielo stellato. Perché questo non avviene anche nelle foto? Sulla Luna le condizioni di visibilità sono straordinarie. E allora com'è possibile che gli astronauti non abbiano scattato nemmeno una foto diretta del cielo stellato? Quarta domanda. 130 gradi al Sole, meno 100 all'ombra. Questa la temperatura sulla Luna. Non esiste celluloide in grado di reggere a sbalzi del genere. E gli astronauti utilizzano esattamente le stesse pellicole che si usano sulla Terra. Come reagiscono le sensibili componenti elettroniche? Come è stato risolto il problema di non far gelare il carburante necessario al viaggio di ritorno? Quinta domanda. Le impronte lasciate sotto il modulo lunare, nelle vicinanze immediate del propulsore principale. Dopo l'allunaggio, infatti, il propulsore avrebbe dovuto spazzare via la polvere su cui sono impresse le impronte. Se giungessero sulla Terra senza essere filtrate, le emissioni del Sole, radioattive e letali, distruggerebbero ogni forma di vita sul nostro pianeta. Durante le passeggiate sul suolo lunare, a proteggerli dai raggi radioattivi del Sole, c'era solo una tuta spaziale realizzata con fibre tessili e materiali sintetici. E dunque, come hanno fatto a sopravvivere? Settima domanda. Dal punto di vista formale, le foto della missione dell'Apollo 11 fanno pensare ad un allestimento in un teatro di posa. Di fatto, sono praticamente identiche alle immagini scattate durante l'addestramento. E allora, Buzz Aldrin è davvero sulla Luna oppure in uno studio cinematografico? Roberto Battiston, presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, buongiorno. Come abbiamo detto, il portavoce del comitato investigativo del governo russo, Vladimir Markin, annuncia un'inchiesta sullo sbarco sulla Luna. La Russia vuole scoprire se gli americani hanno davvero mandato gli uomini sulla Luna con le missioni Apollo o se non si è trattato solo di una messa in scena. Ecco, lei ha sentito, buongiorno, le prove portate dagli antagonisti. Sono prove assolutamente irrilevanti? Ma sono prove ridicole che si dimostrano facilmente essere infondate. Abbiamo una letteratura vastissima che a una le smontano. Ma in realtà in questo caso dobbiamo ricordarci di due cose. Perché l'annuncio è stato fatto dai russi in questo momento? Perché sono sotto attacco sullo scandalo della FIFA e di come sono state assegnate alla Russia, diciamo, i mondiali. Quindi è una sorta di nuova tappa della guerra fredda. Ma è esattamente questo, ed è affascinante vedere come non hanno più molti argomenti, devono rifarsi ad argomenti di 50 anni fa. E sul perché alcuni filmati sono stati persi dalla NASA. Ecco, però questo è vero. Questo è vero. È vero che gli americani hanno perso le cassette con la registrazione dello sbarco. Questo sono testimone, perché Tito Stagno mi ha detto che la NASA addirittura ha chiesto alla RAI all'epoca se avevano delle copie. Ma com'è possibile questo? Perché la NASA è una cosa enorme. Purtroppo anche noi in Italia perdiamo le copie di alcune trasmissioni televisive prese all'inizio della nostra epoca moderna, quindi non è impensabile che un'organizzazione così grande non abbia tutto quanto sotto controllo. Potremmo diciamo che i nastri dello sbarco sulla Luna non sono proprio una trasmissione qualunque. Ma certamente no, ma li hanno copiati, sono disponibili. Però io vorrei portare due elementi. Sì. Diciamo, la banalità dell'evidenza che ci siamo stati sulla Luna quando non avevamo ancora le fotografie dirette dei punti di sbarco. Sì. Che sono state raccolte qualche anno fa. Erano nell'analisi microscopica dei piccoli granelli di sabbia che vengono dalla Luna. È incredibile quanto sia semplice dimostrare che quei granelli di sabbia vengono veramente da un altro mondo, perché guardando il microscopio sono perforati e traforati come un piccolo merletto a causa dei raggi cosmici che li bombardano continuamente sulla superficie lunare. Non esiste nessun grano di sabbia del genere sulla Terra, è impossibile, quindi sicuramente quel materiale viene da un altro mondo e l'unico mondo possibile era la Luna. Senta, scusa, prego. Questo era possibile, diciamo, fino a qualche anno fa. E nel circa 5 anni fa il Lunar Reconnaissance Orbiter, una navicella che ha volata a 40, 50, 70 km sopra la superficie della Luna, quindi un satellite, ha fotografato tutti i punti in cui sono atterrati gli Apollo, non solo, tutti i punti in cui sono schiantati poi i pezzi dell'Apollo ritornati sulla Luna e tutti i punti in cui sono atterrati i robot dei russi. Non ne manca nessuno. Ma le foto sono state distribuite? Certamente, sì. Sono su internet. Sono su internet. Senta, ma perché oltre ai, diciamo, ai filmati che sono stati persi comunque dalla NASA, non si trovano le pietre lunari? Ma questo, anche questo è un mito. Ah, non è vero? Che, no, perché sui 400 chili, 380 per essere precisi, la gran parte stanno ancora stoccati al Johnson Space Center e una piccola parte è stata distribuita, qualcuno sta perfino a Milano al Museo della Scienza, e quindi una piccola parte distribuita, la gran parte sta in cassaforte. L'abbiamo anche noi. Senta, dottor Battiston, quindi le prove sono totalmente irrilevanti, insomma, lei dice si tratta di un'operazione di depistaggio per, lei dice, per il calcio. Che Richard Feynman, grandissimo fisico teorico, scomparso da tempo americano, chiamava la cargo cult, quando durante il periodo della guerra erano atterrati alcuni cargo, alcune isole lontane, diciamo, del Sud America, e gli indigeni, vedendo atterrare questi giganteschi aeroplani con dentro questi, appunto, questi cargo di materiali, facevano rifornimento, poi improvvisamente scomparvero perché la guerra era finita. Bene, per decenni continuarono a sognare, a tramandarsi generazione in generazione, di questi dei che arrivarono con gli aeroplani, come facevano ad arrivare su queste isole con queste potentissime macchine, e rimase come gli UFO, insomma, come gli UFO, come gli UFO. Quando uno va sul ricordo, sui forse, sulla psicologia, si può inventare qualsiasi storia, certo, e sembra credibile. Senta, dottor Bastiton, un'ultima cosa, ma secondo lei come mai i russi pensano che con una bufala del genere si possa ancora creare un qualche effetto politico o di propaganda? Perché, come lei sta vedendo in questa trasmissione, stiamo parlando proprio di questo. E quindi hanno avuto ragione. E quindi, diciamo, funziona sulle leggi della comunicazione. Grazie, dottor Battiston. Presto, grazie mille. Grazie. Buon lavoro. Ecco, Mario, allora la guerra fredda non ha... non ha limiti di argomenti, no, in questo momento. Certo. Poi devi sempre... Legare i campionati del mondo allo scandalo della UEFA, questo comunque... Ma ci sono delle tensioni, ogni nazione... argomento è buono. Insomma, poi, se parliamo di propaganda, gli americani non è che sono proprio immuni da questo. No, anzi, assolutamente, ma in questo caso è la Russia, no? Sì, però non ci si deve sorprendere, la Russia ha sempre fatto queste operazioni. Poi bisogna anche immaginare, insomma, che intelligence in realtà... è contro intelligence. Sì, e poi in realtà Putin fa queste cose per parlare al suo popolo, non all'estero. Ah. Bisogna sempre immaginare le strategie, sì, che si usano. Sono comunicazioni interne. Sì, è sempre, però, dire, è sempre la nazione più grande del mondo. Cioè, stiamo però parlando di una cosa enorme. Su giornali inglesi, americani, quindi, insomma, diciamo, sì, con una voglia di diffusione. Sì, noi sorridiamo di queste cose perché non conosciamo la Russia. No, ma noi come Occidente, no, che ci crediamo, sorridiamo di questo perché non conosciamo in realtà la mentalità della Russia. Ulisse ci scrive: la Russia è dell'Europa, chi attacca la Russia anche solo economicamente attacca tutti noi, è anche in Europa, è cuore dell'Europa. Tu, Pietrangelo, certo, che dici ragione di questa Ulisse. Luna? Ha ragione Ulisse. E di questa luna se posso spalmare un po' di malizia, avendo esaurito gli americani la favola dello scontro delle civiltà, perché non gli è andata bene, anche perché le guerre che hanno acceso non si sono spente, soprattutto li hanno molto bruciacchiati, sono ritornati al vecchio amore, quello di separare l'Europa, seminando il caos nel Mediterraneo e poi accendendo ancora una volta, al di là degli Urali e al di qua degli Urali, un dissidio nei confronti di quello che poi è il cuore pulsante vero dell'identità europea, che è, ripetiamo, sempre continentale. Vabbè, però qui sono i russi però che dicono che gli americani non sono andati. Sono le risposte. È come quando il Corriere della Sera strillava perché era stato pubblicato un elenco di indesiderati in Russia. Però quando noi siamo a stabilire le sanzioni e l'elenco dei perseguitati veri e propri, non diciamo niente. L'altro giorno io ho riferito di Alexander Dugin. Dugin è uno che veramente non può circolare, figuriamoci che cosa potrebbe essere un minimo di reazione da parte dei russi, che comunque hanno da sempre dimostrato dignità e lealtà rispetto ai codici d'onore. Vabbè, insomma, mi pare che questa guerra mediatica è anche divertente. Ma è divertentissima, non ci sono dubbi. Ricorda i primordi delle sfide spaziali. Scusami Mario, a proposito di guerra, io vorrei segnalare questo libro di Angelo Polimeno, che non c'entra con la luna ma quasi, c'entra con l'euro che è un po' lunare. Beh, no? E dice, il titolo del libro è Non chiamatelo euro, sottotitolo Germania e Italia è la vera storia di una moneta illegittima. È molto interessante il libro perché porta, analizza il trattato di Maastricht e la successiva applicazione con documenti e regolamenti che in realtà sono di rango inferiore, quindi non si capisce bene come mai è il famoso la Germania. Posso aggiungere un'altra cosa a proposito della Luna? Sì. Come, è rimasto come sapete, gli astronauti sono occidentali, i cosmonauti sono invece russi. E quando il cosmonauta russo andò sulla Luna, si affacciò dall'oblò e comunicò in terra: guardate, sono qui sulla Luna e Dio non c'è. Il tempo di tornare sulla Terra, e trovò Dio di nuovo in Russia. Hai visto? 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblicità. Mix 24. La mattina il suo sorriso più non vedo su di me. Nella stanza non si sente quell'odore di caffè. Voglio alzarmi, lo dovrei, ma mi chiedo dove andrei. Lei non è qui, non è là. Vado incontro alla città, quanta gente che mi urta, ma non guarda dove va. L'ultimo giorno di trasmissione, come mai questa canzone? E perché incontro alla città, oggi ho visto arrivare gli insonni. In metropolitana avevano tutti quest'aria di non averla vissuta la notte, anzi di averla vissuta fin troppo, di essere rimasti tutti svegli, e c'era poi l'odore di caffè. In tutti i percorsi della metropolitana c'era proprio questo odore di caffè, e anche l'odore delle brioche, l'odore della colazione, e comunque tutti avevano questa faccia da cercatori e stavano dappertutto, nelle scale mobili, poi nelle banchine, ovviamente aggrappati ai corrimano, e tutti con quell'espressione di bambini disperati di non trovare la mano della madre da stringere, e tutti con respiro mozzato di chi dice lei non è qui, non è là. Con questa canzone di Edoardo Bennato, ma anche di Bruno Lauzi, e nessuno che si fosse riposato, ma neppure trasognato, anzi tutti quanti attraversati da una rabbia dolcissima, e nulla è qui e nulla è là, e quindi tutto quello scorrere della giornata per tornare a casa la sera, immaginandola già chissà se c'è la luce, e quindi una nuova veglia. Guardo in alto. Vabbè, la canzone dell'ultimo giorno. L'ultimo giorno. Domani mattina non saremo più così stanchi. Mamma mia. E allora cosa bolle nella tua pentola, Mario? Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher. The only one, va bene, sono The Preacher's Man. Pezzo meraviglioso per parlare di un argomento invece un po' triste, senza se volete, lo è per mille motivi, soprattutto politici. Giovanni, ieri il vertice è stato un disastro totale. Beh, non mi sembra ci siano dei risultati. Vertice europeo. Diciamo che sostanzialmente ognuno fa come vuole. Sì, hanno litigato. Non c'è niente di vincolato. Hanno litigato furiosamente, hanno trovato un piccolo accordo, che accordo non è, perché appunto, come dicevi tu, è su base volontaria la ripartizione di 40.000 profughi più altri 20, quindi saranno 60.000 giro di 2 anni, e Renzi ha detto: se questa è l'Europa tenetevela, però poi alla fine, come si dice, ha fatto pippa, no? Perché hanno deciso, bisogna costruirla la posizione, hanno, non è hanno semplice, deciso... comunque la sua operazione in Europa non è facilissima. No, difficile, molto difficile. La Germania comanda, punto e basta. Già dire che ha ragione lui in questo assolutamente, caso, perché bisogna essere assolutamente onesti. Assolutamente, a un certo punto la cosa divertente, che sarà poi l'oggetto di un'altra bolla, è che Juncker si è lamentato, perché dice: ma scusate, sono le 2 di notte, io domani mattina alle 6 devo incontrare gli amici della Grecia e vedremo com'è andata. Esatto. Salamino. Sarà che l'Italia cambia verso, hashtag o meno, sarà che l'acqua gli va per l'orto, a Matteo Renzi intanto un ostacolo gli capita. Ma come? Ma come io ho attraversato l'Alto Adige e mi pare che me lo va a Porta Capuana. Ecco, non è proprio l'ostacolo il tradimento perpetrato ai danni della comunità degli insegnanti. Ma nella catena degli inciampi un primo caduto dopo le amministrative c'è. E quindi, se in Campania Vincenzo De Luca, eletto governatore, non può ridere, a Bolzano... Ma come io ho attraversato l'Alto Adige e mi pare che me lo va a Porta Capuana. A Bolzano è finito come a Porta Capuana, e cioè che il renziano Luigi Spagnoli, sindaco appena eletto, crolla. Crolla nottetempo perché la Südtiroler Volkspartei si è sfilata dalla maggioranza. Il consigliere Pittarelli non ha votato la fiducia al programma e dunque anche alla giunta. E siccome dei maestri venerati o meno ci sono, affidandoci al venerato maestro Giulio Andreotti, ripetiamo quello che predicava sempre, e cioè che i veri test politici sono quelli ricavati dai problemi che si leggono in Sicilia e in Alto Adige. A Bolzano dunque è finita così. E in Sicilia, sempre ieri, Ettore Leotta, assessore regionale alla funzione pubblica, ha lasciato la giunta di Rosario Crocetta con queste parole. Intanto immaginate il sottofondo di un treno in corsa. E le sue parole: sono stanco di viaggiare. In questo momento sono sul treno diretto a Catania e poi dovrò cambiare per Siracusa. Non ce la faccio più. Il crollo del ponte è stato un brutto colpo, non solo per le merci, ma anche per le persone. Allora, breve memento, ricordate... Quattro mesi fa... Graziano Del Rio, ministro all'infrastruttura, aveva detto: aveva in 3 mesi vi facciamo la bretella. Ma tre mesi alla siciliana. Dai, su. Ma tu la sai la storia della cintura e della bretella? Sai cosa ci dice X? Chi è X? È un nostro ascoltatore. Dice: questa UE fa acqua da tutte le parti, forse UE sta per Unione Evanescente, oppure uscite dall'Europa. Vabbè. Insomma, come fai a uscirne? L'hai visto come li va a scovare tutti lui? Lui tutti. Queste cose dei Renzini, Renzoni, sì, no, li vai a capare, ma per fortuna che l'ultima puntata gli va l'acqua per l'orto. Oh, mamma mia, vabbè. Dobbiamo fargli fare una telefonata da Filippo Sensi. Adesso lo facciamo. Filippo chiamerà. Sensi chiamerà di sicuro. È vero, dai. È al telefono, dai. Bolla. Il telefono, la tua sculacciata. Non rovinarmi sta canzone, l'ultimo giorno. One more bad brain could bring a fall. When I'm far from home. Questo è un grande successo di Billy Idol, Eyes Without a Face. Senti che bello. Poi improvvisamente diventa una cosa più ritmata. Allora, E allora cosa succede tra Atene e Berlino? È interessante secondo me. Adesso è appena arrivata una notizia, Giovanni, che Yanis Varoufakis, il ministro con le camicie azzurrine, fa sapere che non accetterà soluzioni sul debito della Grecia che considera non attuabili. Quindi il braccio di ferro è molto in corso. Comunque è l'ultimo giorno secondo il calendario liturgico del salvataggio, domani, e in una settimana i colloqui sono falliti la bellezza di 4 volte. Come va il business greco? Secondo me è interessante questo. Leggevo stamattina sul Financial Times che ogni giorno in Grecia chiudono 59 attività, si perdono 613 posti di lavoro e 22 milioni di euro di fatturato. Ogni giorno in Grecia dall'inizio dell'anno accade questo. Ora, salvataggio o no? Ci sarà un momento in cui tutti riflettono e dicono: ma questa ricettina che abbiamo studiato funziona davvero? Perché questi non producono più niente, cioè comunque salvati. Ripeto, non chiamatelo euro. Sì, ma cioè non è più una questione di euro o no. Non è una questione di moneta in sé, è una questione di politica. E questa politica economica così non funziona. Ancora un salamino. L'America si scopre sempre più buonista. Tutti ne dicono un gran bene degli Stati Uniti. Io non ne capisco, già, però siccome se ne parla bene, io ne parlo bene, benissimo, mi adeguo, però non capisco. Allora, è successo che gli esponenti più in vista, Dio ce ne scampi, quelli della destra fondamentalista repubblicana, sull'onda più che naturale di indignazione dopo la strage in una chiesa di Charleston, hanno scatenato i riflessi condizionati del politicamente corretto, creando una santa alleanza tra occidentalisti bushisti, ve li ricordate, e i buonisti di ogni risma. Insomma, vogliono proibire la bandiera confederata, emblema degli stati sudisti, e perfino Via col vento, sia il libro, immagino, e anche il film. Ora, tutti ne dicono un gran bene dell'America. Io non lo capisco, ma comunque se dicono che è così, va così. Ma così, la bandiera confederata, diciamolo, è molto più bella di quella a stelle strisce. Dopodiché, dovendo trarre una morale, con le parole di Via col vento, del buonismo e dell'americanismo meritano solo una risposta. Eccola. Francamente me ne infischio. Idee poche ma chiare. E questo era Rhett Butler. No? Rhett Butler. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Sull'America non ci sono dubbi, mi sembra. Opinioni sul chiare. Francamente me ne infischio, c'è anche un'altra versione. Me ne frego, non so se ben mi spiego. Pubblicità. Mix 24. Ancora una bolla, Mario. Sì, diamoci un ritmo, prima con Eric Clapton. Non so, devo dire anche il titolo, vabbè, lo dico, Cocaine. Ti piaceva questo brano a te? Sì, Giovanni, da ragazzo. Molto. Sì. Dai che siamo di corsa. No, a me pure i peperoni mi danno acidità, figurati la cocaina. Vabbè, senti, oggi sono usciti i dati sulla disoccupazione in Giappone, che poi diciamo. Però insomma bisogna dare una risposta a chi dice: ma in Giappone hanno anche loro un grandissimo debito e non ci sono tutti i problemi che ci sono in Italia. Ora, le spiegazioni sono anche molto semplici, però vorrei dare due o tre misure del perché questo paragone non si può fare. C'è una lieve differenza nel PIL, loro fanno 5 trilioni di dollari contro i nostri 2 trilioni di dollari scarsi, il nostro incaro loro sale, c'è una differenza nel tasso di disoccupazione molto grande, perché il loro tasso uscito oggi, stamattina, è del 3,32%, il più basso dal 1990, mentre il nostro, ahimè, è del 12,4%. Infine c'è una cosa che conta parecchio ed è la demografia, noi certo, come il Giappone e la Germania sì, siamo il paese più vecchio del mondo, solo che in Giappone sono 127 milioni, noi siamo 60. Questi sono i punti. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata. Come tutti i venerdì è arrivato il momento della nostra ultima posta del cuore. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento. Mi è piaciuto subito, non perché sia particolarmente bello, ma per quella miracolosa chimica che ti fa sorridere anche di fronte alle cose più banali, che ti fa perdonare gli scivoloni più imbarazzanti, comprese le scarpe sbagliate o una battuta non riuscita. Insomma, per una volta pensavo di potermi rilassare. Poi ho visto la sua ex moglie, di una bellezza stravolgente. È un incubo, anche perché non abbiamo ancora consumato, e io non faccio che immaginare loro in acrobatiche sincronizzate esibizioni sessuali di cui non sarò mai all'altezza. Spogliarsi a questo punto è fuori discussione, a meno di non fare quella che pretende il buio pesto. Ma per carità, anche quando ci baciamo mi succede una cosa assurda. Non faccio che guardarmi dall'esterno, come se ci fosse una me che si stacca dal corpo e giudica, ride, sminuisce. Intanto anche lui non sembra più così sicuro di sé. Sembra spaventato quanto me. O forse non gli piaccio abbastanza? Il tempo stringe. Alternative all'esorcista? Pietrangelo? Cara e gentilissima signora, ossia non è che deve fissarsi sulle acrobazie sessuali che possano costruire lui e lei, cioè il suo lui e la moglie di lui, per quel che è stato, per quel che è passato, non le acrobazie sessuali, semmai le semplici complicità, per esempio prepararsi un caffè, ancora peggio. E allora a Bossia, signora, che si pone questi problemi, io le rispondo con una massima di Leo Longanesi, ricordi: l'amore è l'attesa di una gioia che quando arriva annoia. Jimmy Desmarais, un grande golfista americano, ha detto una frase che fa il caso tuo. Il golf e il sesso sono due delle poche cose in cui puoi divertirti anche se non sei bravo. E ti ho detto tutto. Ma se non ti basta, allora sposta il piano di competizione e iscriviti ad un corso di cucina e seducilo a tavola. Questa ultima massima, sì, se posso eccepire no, a Sara Tardelli. Sì, voglio eccepire a Sara perché l'ultimo giorno eccepisci in quel campo d'azione. Ti puoi divertire se non sei bravo una sola volta, perché poi la seconda... Vabbè, non... Senti, Marina Milone, che cosa ci racconti oggi dopo il giornale radio? Qual è la storia di oggi? Sì, Giovanni, ricordiamo le vittime della strage di Ustica con un'inchiesta che ripercorre tutti gli interrogativi e soprattutto gli ostacoli che hanno rallentato le indagini per arrivare alla verità su quella tragedia del 27 giugno dell'80. Ne parliamo con Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Bene, allora dopo il giornale radio racconteremo la storia drammatica di Ustica. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori, intanto li ringraziamo per la pazienza che hanno avuto durante questi 10 mesi. Mario Pietrangelo, li ringraziamo e ci diamo appuntamento probabilmente alla prossima stagione. E voglio ricordare che comincerà dalla prossima settimana Mixer Estate, che racconterà storia con storia e musica con Marina Milone e Franco Schipani. Racconteranno sostanzialmente le estati degli anni 60. Dopo il GR, lo ripeto, Marina Milone con Ustica, e intanto ascoltiamo Dedicato a Loredana Bertè. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta,